Io mi chiamo Michele Marziani e insomma qualcuno qui mi conosce perché in fondo ho curato un po' tante presentazioni in questi ambiti, insomma, poi ho questa vicinanza insomma con la terra trema e con chi e con chi la organizza. Stasera presentiamo un libro che si intitola Bussavamo con i piedi, scritto da Pietro Neno Capitani, che è alla mia sinistra. Ecco, assieme a me al tavolo c'è anche Giancarlo Collina, che è il segretario della Camera del Lavoro della CGIL di Ascoli Piceno. Allora, perché Ascoli Piceno? Perché questo libro è una ricostruzione storica della migrazione della mezzadria marchigiana dalla provincia di Ascoli verso la Romagna e in parte, ci racconterà dopo Pietro Neno, verso anche la Toscana. Allora dice, perché noi a Milano, al Leoncavallo, all'interno della terra trema, raccontiamo della mezzadria marchigiana che negli anni 50 andava via da Ascoli Piceno e colonizzava le campagne romagnole? Che senso ha? Allora, io qua la prima volta che ho incontrato questo libro ho detto, cavolo, ecco, questo è un pezzo della storia dell'Italia contadina che noi cerchiamo assolutamente di rimuovere. Insomma, chiunque ha più di 20 anni si ricorda sicuramente che essere contadini non era proprio quello, cioè oggi uno può dire, ma che mestiere fai? Faccio il contadino. Che già suona così e così. 30 anni fa era una cosa di cui normalmente ci si vergognava, non a caso sono stati inventati tutta una serie di cose che sono arrivate persino non solo all'agricoltore ma all'operatore agricolo, perché insomma essere un contadino in Italia significava appartenere a una classe sociale incolta, priva di cultura, di poveracci, di persone costrette a vivere nelle campagne. Allora, di questa storia noi in realtà non abbiamo niente se non, come dire, le bugie che ci piace raccontarci oggi in campo alimentare, cioè tutto il discorso della tradizione, il recupero della tradizione, la cucina della nonna, la cucina della bisnonna, della trisavola, eccetera, eccetera, eccetera, la cucina contadina come una volta, che normalmente si basa tutta su una serie di informazioni che sono, vabbè, prima di tutto di estrazione e di cultura borghese, perché normalmente, come dicevamo ieri con Andrea Perin, i poveri e i contadini non scrivono ricette, non si è mai visto un ricettario scritto, un ricettario di contadini scritto per contadini. Allora, in questa grande bugia, no, del negare un passato agricolo importante, quindi una storia agricola da un lato, e del raccontarsi che una volta si mangiavano cose buonissime perché essere contadini e solamente in cucina era il più grande affare del mondo, ecco, certe testimonianze assumono un valore di tipo universale. Cioè il libro di Pietro Neno Capitani non è solo la storia della mezzadria marchigiana che si sposta verso la Romagna, ma è la storia di un mondo contadino 50 anni fa, quando essere contadini significava comunque faticare a vivere per tutta una serie di motivi. Tra l'altro c'è anche questa parte estremamente affettiva, nel senso che Capitani ha realizzato questo libro perché è in realtà la storia delle proprie radici, della sua famiglia, in qualche modo la sua storia. Infatti vorrei che lui ci raccontasse un po' che cosa c'è all'interno di Bussavamo con i piedi, che ha tra l'altro un titolo estremamente affascinante.